piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Insulti, checca, gente come te deve morire bruciata, gente come te non ha diritto di vivere, ti faremo fuori, dovrai morire, aspettati il peggio da noi. Ebbene, questo mi ha fatto scappare verso casa. Mentre salivo le scale mi sono sentito un colpo sulla testa, sono caduto per terra e questi sono i risultati. Sono stato massacrato a morte. Se non fosse stato per l'intervento di una persona a me carissima, un amico che mi aiuta moltissimo, che è intervenuto mandando via questa persona, che intanto aveva detto ad una seconda persona che stava salendo di andare a prendere un coltello per ammazzarmi e per buttarmi giù dalla finestra. Questo a parlare si chiama Leonardo, è stata vittima di un'aggressione a Torino nel gennaio 2019, la sua testimonianza è ripresa da Repubblica.it. Perché è stato aggredito questo signore? Perché probabilmente non aveva fatto segreto del fatto di essere omosessuale. E qual è il problema? Perché una persona che manifesta le sue preferenze nel campo del sentimento, della sessualità, della relazione, deve essere aggredita e picchiata? Perché questo si chiama omofobia, che è un fenomeno presente in molte realtà, ma anche presente in maniera consistente nel nostro paese. E voglia dire, ma io ho tanti amici omosessuali, figuriamoci, nulla in contrario. È qualcosa che si avverte in maniera concreta, reale, quando lo si subisce. Visto da fuori può anche sembrare qualcosa che probabilmente è riservato soltanto a persone di particolare arretratezza. Si parla da parecchio tempo di una legge che in qualche maniera aggiunga ai reati di discriminazione, di razzismo, che già sono penalmente perseguiti, anche il reato di omofobia. È la proposta di legge Zan-Scalfarotto sull'omotransfobia, che vuole appunto estendere i reati di odio, istigazione a delinquere, atti di violenza, già puniti dal codice penale, esattamente con gli articoli 604 bis e 604 ter, anche all'orientamento sessuale, all'identità di genere. Paradossalmente io posso fare uno striscione con scritto sporchi ebrei, sporchi meridionali, sporchi negri e vengo perseguito. Se scrivo sporchi omosessuali, in realtà non viene considerato un reato. Questa legge semplicemente vuole aggiungere anche questa postilla per cui non ci sia una ulteriore specifica sul fatto che è qualcosa di penalmente perseguibile, quindi contrario alle regole che si dà a un popolo civile, discriminare persone per i suoi comportamenti sessuali. Cosa normalissima, tranquilla, sono perfettamente d'accordo, se ne sta discutendo a luglio, mi sembra che questo DDL sarà discusso. Però nel frattempo mi stanno arrivando con cadenza quotidiana volantini e comunicati stampa. Leggo l'ultimo che mi è arrivato: omofobia, al via restiamo liberi, l'11 luglio tutti in piazza, 100 piazze contro il DDL Zan Scalfarotto. Perché? Perché l'11 luglio si culminerà questa iniziativa con una mobilitazione di 100 piazze perché non si faccia questa legge. Prima è considerata una legge liberticida. Cioè si limita la libertà delle persone di esprimersi, cioè discriminare una persona per i suoi comportamenti sessuali è, comunque fa parte delle libertà degli esseri umani. E mette nello specifico, le leggo tutti, quali sono i motivi per cui vanno in piazza. In caso di approvazione del testo sarà possibile per chi gestisce una palestra vietare agli uomini l'ingresso nello spogliatoio delle donne quando anche si presenti un uomo che tale non si sente? Sarà possibile un genitore chiedere al figlio di non partecipare a attività scolastiche inerenti a temi sensibili sulla sessualità e la famiglia? Sarà ancora possibile per un sacerdote citare il magistero della Chiesa Cattolica sul matrimonio? Sarà libero un fotografo o un pasticcere di non prestare la propria opera per festeggiare l'unione civile? Sarà possibile dire pubblicamente che la pratica dell'utero in affitto è un abominio o dirsi contrari alle adozioni omogenitoriali? Sarà possibile associarsi o far parte di associazioni che promuovono l'insopportabile diritto di un bambino ad avere un papà, insopprimibile, scusate, un lapsus che deriva dalla mia esperienza personale, l'insopprimibile diritto di un bambino ad avere un papà e una mamma? Per tutte queste domande il DDL sull'omofobia ha solo una risposta: no. Quindi si pone già, si mettono le mani avanti con queste vicende. Mi sono studiato il DDL, in realtà non c'entra assolutamente nulla. Il pasticcere può benissimo dire non ti faccio la torta perché non te la faccio, fine. Certo, non può discriminare, non può dire non te la faccio perché sei un brutto gay. Rientra appunto nella discriminazione verso questa persona. Ma per questi motivi si tace il fatto che in Italia esista un forte fenomeno di omofobia che sfocia anche in comportamenti violenti, in comportamenti criminali. La cosa paradossale è che la CEI, i vescovi d'Italia, si sono apertamente espressi, facendosi cavoli che non dovrebbero riguardare a loro, che sono le leggi dello Stato italiano, dicendo che questa legge limita le libertà. Non credo che possa essere fatta una legge in Italia che limiti il diritto di un sacerdote dal suo pulpito di esprimere tutte le verità proclamate dal suo magistero. 800240024, voi cosa ne pensate? Il nostro è un paese che in qualche maniera tollera delle sacche di omofobia? Questo atteggiamento generale, diffuso, istituzionale da parte della Chiesa Cattolica, ma anche della politica che appoggia appunto questa avversione al DDL sull'omotransfobia, rivela che esiste anche una sorta di discriminazione latente, anche istituzionale. 800240024, vorrei sapere cosa ne pensate. Intanto presento il mio ospite, Simone Alliva, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, è un giornalista, collabora con l'Espresso, il 18 giugno esce il suo libro, lo anticipiamo di un paio di giorni, Caccia all'Omo, viaggio nel paese dell'omofobia, Fandango Libri. Questa è la prima inchiesta dettagliata con fatti oggettivi sulla omotransfobia che in Italia sfocia anche in comportamenti violenti. Sì. Naturalmente il tuo è un giudizio di parte, quindi non ti so dire cosa pensi di quello che dice la CEI o di questi che mandano i volantini per scendere in Piazza Luglio, però oggettivamente ci sono prove concrete che sconfessino chi dice che in Italia non esiste il fenomeno dell'omofobia? No, in Italia il fenomeno dell'omofobia esiste, ma per farlo basta semplicemente mettersi in ascolto. È quello che ho cercato di fare io con questa inchiesta, che nasce da un'altra inchiesta che è stata pubblicata per l'Espresso quasi un anno fa. Basta mettersi in ascolto, leggere le cronache di tutti i giorni. Non stiamo parlando di una violenza verbale. Prima appunto citavi questo comunicato denunciava una sorta di bavaglio alle idee. È proprio una violenza che colpisce la comunità LGBT fisicamente, ogni giorno. Io mi sono reso conto, studiando appunto alcuni dati, che c'è un crescendo di violenza omotransfobica. Penso che soltanto nel 2019 ci sono stati 212 casi, mentre ad esempio nel 2017 si contavano 144 casi. Parliamo proprio di violenza fisica. Allora c'è un problema. Ma lo trovi singolare dal momento che obiettivamente, almeno apparentemente, dei passi avanti sono stati fatti, non viene più considerato un delitto grave dichiarare il proprio orientamento di sessualità, di affettività? Non è che in questo momento si stiano facendo dei grossi passi indietro? E l'atteggiamento generale, anche istituzionale, apparentemente dietro un baluardo che sembra inattaccabile, difendiamo la famiglia, difendiamo l'integrità della famiglia, in realtà non si tenda comunque a lasciar passare o dimenticare o far finta che non esistano dei comportamenti concretamente criminali, perché l'aggressione è un comportamento criminale, la violenza e la pressione psicologica è un comportamento criminale. Sì, io ho notato che questo incremento è dovuto soprattutto a un clima che è stato alimentato negli ultimi anni. Io mi collego soprattutto nel libro alle elezioni del 4 marzo. Pensa, il 4 marzo l'Italia ha consegnato, dopo aver approvato le DCD. Scusi, ma cos'hai? Un viva voce, un auricolare, qualcosa? Sì, l'auricolare. No, cerca di parlare direttamente nel telefono, ti sento un po' male, un po' basso. Scusami, sì. Sto dicendo, io ho collegato questa violenza omotransfobica appunto a questo aumento di questi casi dopo il 4 marzo. Il 4 marzo è cambiato il mondo. Il 4 marzo, dopo aver approvato gli unioni civili, sembrava che l'Italia finalmente... Ecco, infatti, quello dicevo, c'era stato un momento istituzionale, sì, che mi sembra unico nella, sì, storia del nostro paese. Unico, assolutamente sì, perché ad esempio sono entrati ad esempio nel Parlamento senatori che parlavano di gender, di abolire le unioni civili, addirittura di caccia alle streghe, riferito proprio alle persone LGBT, proprio è stato questo termine, caccia alle streghe, l'abbiamo raccontato anche sull'Espresso. È stato come tornare indietro nel tempo, e da lì è scattato qualcosa, e questa cosa l'abbiamo vista poi nella cronaca, quindi è ovviamente, naturalmente, un qualcosa legato a chi ci rappresenta, insomma, perché se poi tu vai in televisione a parlare di genitore 1, genitore 2, guerra al gender, insomma, in termini anche abbastanza violenti, scatta qualcosa. Diciamo perché... che nessuno, dal punto di vista istituzionale, ma nemmeno i vescovi italiani, si sognerebbero mai di dire apertamente caccia l'omosessuale, o è sbagliato essere omosessuali, perlomeno invocando discriminazione. Però si prende più alla larga, si crea intorno un clima come questa fantafavola del genere. Sono stati terrorizzati negli ultimi anni generazioni di genitori, pensando che mandavano i bambini a scuola maschietti, li tornavano con la gonnellina trasformati in femmine, o viceversa, mandavano ragazzine, li tornavano con le barba e i baffi. Che è un clima generale che alla fine però nasconde un atteggiamento omofobico palese, radicato, sedimentato in ideologie che sembrano intoccabili. Sì, guarda, io proprio per questo, per cercare di capire questo fenomeno, ho intervistato uno psichiatra, che è Vittorio Lingiardi, un importante psichiatra, che mi parlava appunto della disumanizzazione, che ricopre sempre un ruolo essenziale nei crimini di odio. È come se le persone LGBT, attraverso queste che tu hai definito favole, no? Favola del gender e così via, diventassero qualcosa di meno che esseri umani, e così venivano colpiti, vengono portati a bersaglio sostanzialmente. Cioè come fossero, diciamo, i terminali immoti di un grande disegno occulto, che è quello di cambiare l'umanità, dai protocolli dei savi anziani di Sion in poi, sempre parlato di disegni occulti, e questo disgregare l'Occidente, disgregare la famiglia, disgregare comunque i capisaldi della nostra civiltà. Ma pensa, guarda, ti do questa notizia, questa nota di colore dell'ultima ora. In questo momento in Commissione Giustizia si stanno depositando dei contributi scritti da parte di chi è stato audito, insomma, durante la discussione sulla legge contro l'omotransfobia, che, come hai ricordato tu, arriverà a luglio alla Camera. C'è un contributo scritto di Silvana De Mari, che è una scrittrice, è stata chiamata dalla Lega. Sì, la conosco, guarda, io ho la grossa responsabilità. Fui prima a chiamarla in radio perché mi divertiva quando ancora non si esprimeva su queste cose, mi parlava di fantasy, anche una signora simpatica. Poi, non so, ha avuto una sua metamorfosi improvvisa, che era insospettabile quando la frequentavo io. È diventata l'ideologa della patologia omosessuale, praticamente. Esatto, esatto. E questo contributo che è stato depositato, cioè, facciamo attenzione, questo contributo è stato depositato alla Camera, in Commissione Giustizia, titola «Non facciamoci imbavagliare, la guerra in difesa dell'ovvio e del tubo digerente». Insomma, se tu parli in questi termini, rivolgendoti alle persone LGBT, e quindi le riduci a carne, se posto a sederi, per non dire altro, è ovvio che poi veicoli un sentimento che può raggiungere, insomma, qualcuno che non ha diciamo, no? che è un percorso che passa attraverso una pseudo lettura scientifica che porta a valorare il più triviale, il più rozzo dei luoghi comuni, che si concretizza molte volte negli epiteti che classicamente dalle poesie licenziose latine oggi vengono attribuite alle persone omosessuali. Mi fermo soltanto un istante, stanno arrivando le prime telefonate, l'ho messa in attesa, fra un po' parliamo con gli ascoltatori. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Santità, la prima domanda che le vorrei fare è: che cosa lei pensa, che cosa le vorrebbe dire lei a un papà, a un padre, che il suo figlio gli dice che è omosessuale, che vuole andare a convivere con il suo... In quale età si manifesta questa inquietudine del figlio? È importante. Una cosa è quando si manifesta da bambino, che ci sono tante cose da fare con la psichiatria o per vedere come sono le cose. Un'altra cosa è quando si manifesta un po' dopo 20 anni o cosa del genere, no? Questo è preso da SAT 2000, agosto 2018, una domanda che è stata fatta al Papa in aereo. Il Papa risponde: beh, ben diverso, se è un bambino si può lavorare con la psichiatria, quindi si può intervenire sulla patologia psichiatrica. Se c'ha 20 anni c'è chi lo fa lo stesso, manda lo stesso dallo psichiatra le persone a convincere che in realtà quello è sbagliato. 800 24 00 24, parliamo della latente ma nemmeno tanto omofobia che c'è nel nostro paese, ne parliamo perché a luglio si parlerà di un DDL che appunto tende a considerare anche questo fenomeno come un fenomeno penalmente perseguibile. È molto difficile farlo in un paese in cui già la gente è pronta a scendere in piazza, perché una legge che punisce l'omotransfobia è una legge che impedisce ai pasticceri e ai fiorai di dire no quando vanno da loro due gay, ci sposiamo, ci mettete i fiori e ci fate la torta, e loro hanno paura di non potergli dire di no, e quindi bisogna scendere in piazza a fronte di persone maltrattate, vessate, discriminate, una sofferenza reale e concreta di una fetta di umanità che non ha nessuna colpa. Abbiamo come ospite Simone Alliva, che è un giornalista che collabora con l'Espresso. Il 18 giugno esce il suo libro Caccia all'Omo, viaggio nel paese dell'omofobia, Fandango Libri. Vi consiglio di leggerlo perché vedete raccontato attraverso una testimonianza, un reportage, quelli che sono gli episodi in cui fratelli accoltellano i fratelli, genitori mandano via di casa i figli, gente va a aspettare altra gente sotto casa per picchiarli semplicemente perché hanno il disordine sociale di aver manifestato una loro necessaria volontà di essere apertamente liberi di professare quella che è la loro affettività. E poi c'è la presa di posizione dei vescovi, e qua non voglio anch'io a mia volta essere discriminatorio, però è un po' ridicolo che proprio i vescovi, proprio nell'ambito del clero, ci sia questo accanimento perseguire chi vuole appunto difendere i diritti delle persone omosessuali. E qua mi fermo. Giuseppe, provincia di Pesaro Urbino, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sì. Lei fa bene a farla affrontare questo argomento, però credo che sia un po' tempo, non dico perso, ma la gente ormai non capisce più queste cose qui, le fa e basta, è un discorso di sentimenti, un discorso di le persone normali che non si interessano, sono solo quei quattro preti, quei quattro vescovi, il Papa che faceva un viaggio in aereo, quindi era più vicino a Dio, quindi si è illuminato un pochettino meglio. La vita va avanti. Oddio, illuminato meglio. Ma sì, ma ha detto portati dallo psichiatra, non mi pare proprio sì, un'illuminazione. No, ma voglio dire, non è Pio IX che ha fatto il sillabo, ecco, intendiamoci bene, sì. Anche se il sillabo non parlava di omofobia, però siamo ancora molto, molto lontani, quindi Ma secondo me posso dire una cosa, però il Papa ha pieno diritto di dire che secondo lui essere omosessuali è un disordine morale, che mi importa? Lo dice per i cattolici che dovrebbero seguire il suo dettame, se sono omosessuali si mortificano e rinunciano ai piaceri della carne o dell'espressione del proprio sentimento, ma sono fatti loro, non può parlare in assoluto di tutta l'umanità, secondo me. Poi è un punto di vista, uno fa quello che vuole, uno sta a digiuno per mortificarsi e rinuncia all'affettività se questo pensa che è in contrasto con la sua religione, ma sono fatti loro, nessuno potrà mai censurare questa presa di posizione individuale libera di un essere umano. Però in generale mi sembra un po' strano che dei vescovi mettano lingua su una legge dello Stato italiano, mi sembra molto singolare. Anna da Milano, buongiorno. Buongiorno. Io ho telefonato perché vivo a Milano in una cerchia di persone mediamente evolute, colte, e a parte i miei amici, la strettissima cerchia dei miei amici con cui non ho mai avuto problemi, discussioni sì, in questo campo, invece ho notato negli ultimi anni mentre per un po' nessuno osava dire nulla, un'omofobia strisciante che ritorna e che certamente non si esprime con violenza negli ambienti che ho modo di frequentare io, ma che si esprime in un modo un po' subdolo tra la presa in giro e il lamento, non so, frasi del tipo ormai nel mondo della moda, del design dell'arte ci sono solo loro, no? E poi, come diceva il signore prima, la gente normale, cioè questo fatto di dire sempre ma le coppie normali queste cose non le fanno. A me è capitato, quando io mi sono occupata di donne maltrattate e quando sostenevo che l'adozione di un bimbo da parte di una coppia omosessuale poteva garantire una vita molto più serena, chiaramente dopo tutti i controlli che del resto vengono fatti anche nelle coppie etero, e mi sono sentita dire tuoni e fulmini, nonostante il fatto che io ho testimonianza di famiglie etero dove i bambini venivano violati o anche solamente maltrattati. E questa cosa a Milano, che io pensi che Milano sia la patria della correttezza, però mi fa molta impressione, cioè mi preoccupa, perché la diversità, io davo per la diversità nel senso la scelta di stare con una persona dello stesso sesso, io pensavo fosse una cosa ormai assolutamente sdoganata, almeno in certi mondi che si professano di sinistra, che si professano colti e avanzati. Invece io purtroppo devo dire che strisciante, un po' nascosta, un po' detta. Ma io penso, avvocato, penso che comunque sia, noi dobbiamo fare uno sforzo culturale. È chiaro, io sono nato nel 1954, lei pensi che tipo di cultura possa aver respirato io in una famiglia di provincia, di destra e tutto? È chiaro che ho dovuto farci di me un lavoro pesante, potente, di presa di coscienza culturale rispetto a alcune arretratezze che ho respirato nel mio ambiente familiare. L'ho fatto quando mi sono aperto, sono andato in giro per il mondo, ho fatto questo lavoro. In un momento in cui c'è, come diceva il nostro ospite, una sorta di sdoganamento istituzionale che passa attraverso un percorso molto tortuoso, non prende mai il problema direttamente, è chiaro che riemerge questo sommerso, che poi rassicura, promuovere un comportamento che viene considerato nella norma rassicura tutti. Tutto ciò che esce fuori dalla norma, cioè dalla frequentazione dei comportamenti più usuali, mette in discussione i comportamenti di ognuno. Giuseppe da Firenze, buongiorno. Salve, buonasera, buongiorno. No, io volevo un po' parlare di una cosa diversa, perché comunque l'esperienza che ho io è un'esperienza, almeno professionalmente, completamente opposta, no, a quello di cui, perché io lavoro per un'azienda americana dove le tematiche di differenziazione di sesso non esistono, abbiamo delle policy interne che preservano l'integrità delle persone indipendentemente dal sesso, e noi siamo stati nella mia azienda diciamo antisegnani alla legge Cirinna. Addirittura 7 mesi prima abbiamo messo all'interno delle nostre polizze aziendali la protezione per sia assicurativa, familiare per le persone omosessuali dello stesso sesso. Io falsamente mi sono sposato e nella mia azienda sono stato il primo a prendere la licenza matrimoniale e poi ho anche due figli avuti da una maternità surrogata, quindi l'azienda mi tutela me e tutela le mie figlie come se fossimo tranquillamente di una genitorialità, diciamo, brutta la parola, normale, però tradizionale. Quindi io mi occupo, sono all'interno dell'azienda, sono il leader del GLBT interno e siamo integrati con tutte le nostre cugine, i nostri brand cugini che sono negli Stati Uniti, in tutto il mondo. Però Giuseppe, ha detto una cosa fondamentale all'inizio. La vostra azienda ha assunto delle policy interne che sanciscono questa situazione di tranquillità che lei sta enumerando. Quando c'è una legge, quando fa parte di un regolamento, la gente non si sogna nemmeno di far emergere questo lato arcaico della propria personalità. Ma quando viene anche discusso il principio legale di tutela giuridica delle persone che hanno diverse maniere di intendere l'affettività, la coppia, l'amore, il sesso e via dicendo, è chiaro che può riemergere. Io penso che l'omofobia sia qualcosa che istintivamente allinea nelle persone, fa parte dell'istinto di conservazione, siamo tutti uguali, siamo più tranquilli, il diverso mette in difficoltà e in discussione la nostra integrità, o ancora peggio, per chi cova comunque delle incertezze, è la cartina al tornasole, sembra che si scopre che anche io lo sono. Questo è, diciamo, il problema. La maggior parte dei leader omofobici molto spesso nascondono una loro inquietudine interiore. Questo fa parte della storia, naturalmente. Ecco, ci fermiamo solo un istante, poi riprendo anche con il mio ospite. Il tempo vola. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus-free. Dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Melog 800240024. Sono grato a Roberta Frisani che mi sta mettendo in onda da Milano, Alessandro Marco Tulli che mi segue come assistente, e da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Oggi parliamo della violenza omotransfobica in Italia. Ne parliamo poco prima che si discuta il decreto di legge che dovrebbe appunto considerare un reato gli atteggiamenti omotransfobici, ma ci sono levate di scudi da parte dei vescovi, da parte anche di una parte della politica, dicendo che in fondo poi diventa un fatto liberticida, che nessuno potrà esprimersi per difendere quella che è la famiglia tradizionale. Ne stiamo parlando con Simone Alliva, che è un giornalista che collabora con l'Espresso, e il 18 giugno esce il suo libro Caccia l'Omo, viaggio nel paese dell'omofobia, Fandango Libri. Allora, Simone Alliva, in base alle telefonate che abbiamo sentito prima, cominciamo a esprimere se tu intravedi delle aree di serenità che realmente ci sono nel nostro paese, o semplicemente è una multinazionale in cui gli americani hanno fatto il regolamento, quindi si comportano tutti secondo quel regolamento e non ci sono infatti problemi. Beh, naturalmente è un caso isolato, perché l'America ha fatto il suo percorso di accettazione, non tolleranza, accettazione. Nel 2009 è passata la cosiddetta Matthew Shepard Act, che ha consentito tutta una serie anche di policy e di, se vogliamo, di protezione per le persone LGBT. Invece l'Italia, abbiamo sentito prima l'ascoltatrice che diceva: io vedo questo sentimento che sta crescendo ultimamente, e infatti c'è un mondo che è diviso attualmente in Italia in normali e deviati, cioè nel senso chi aggredisce, chi insulta. Vorrei parlare dell'ambiente radical chic modaiolo, case di ringhiera milanese che apparentemente sono aperte a tutte le difese dei diritti, cioè sì, hanno gli amici stilisti, gli amici artisti, poi dopo si danno di gomito, fanno la risatina e fanno il doppio senso. Sì, sì, è una questione, sembra retorica, ma è una questione culturale, cioè nel senso, è proprio lì che bisogna intervenire. C'è chi riesce a formarsi da solo, come hai raccontato tu con la tua esperienza personale, e c'è chi invece forse va aiutato. Io penso che questa legge, che non è una legge liberticida, ricordiamo. Mi chiarisci questo punto, tutti i punti che ho letto prima mi facciano un po' sorridere, ma realmente c'è questa paura che il pasticcere non può rifiutarsi di fare la torta con i due ometti sopra e le due donnine, che il fioraio non può rifiutarsi di portare i fiori, cioè, ma c'è veramente questo pericolo, che già in sé mi sembra no, ben poca roba di fronte al fatto che persone vengono picchiate, perseguitate e hanno difficoltà di vivere abbiano giustizia? No, assolutamente no, perché questa è una legge che interviene su due punti del codice penale, interviene sulla legge Mancino e aggiunge una semplice clausola che sono fondati sull'orientamento sessuale e l'identità di genere i reati di istigazione alla violenza e alla discriminazione, non alla propaganda di idee. Cioè, è proprio il disegno di legge così, la propaganda di idee non viene considerata, rimane la propaganda di idee soltanto in caso di se qualcuno afferma la superiorità della razza, ecco, in quel caso sì, ma l'orientamento sessuale e l'identità di genere non sono inseriti. Cioè, se passa la legge così com'è il testo, uno può tranquillamente dire: io sono a favore delle famiglie fatte da un papà e una mamma, sì, genitore 1 e genitore 2, fine. Nessuno può perseguitarlo, sì, per questo. Può anche dire: digli, sei un ignorante, sei arretrato, ma rientra nel dibattito delle idee, ma non c'è un comportamento penalmente perseguibile. No, ma non sarebbe, giuridicamente non sarebbe possibile neanche. Non è possibile, ma infatti c'è un paese in cui ancora c'è libertà d'opinione, cioè è difficile. Mi sorprende, anzi, sai, tu hai detto un po' sorpreso per la CEI, non mi sorprende tanto, perché in realtà questa è una presa di posizione che continua dal, ci ricordiamo la legge Scalfarotto del 2013, la legge Concia, che volevano intervenire in questo senso, hanno sempre parlato di legge liberticida, ma poi in realtà se tu prendi le carte e leggi non c'è nulla di tutto questo. Quindi io mi chiedo, in piazza l'11 luglio queste persone scendono per dire che cosa? Per veicolare una fake news? Allora forse bisogna dire che non è così. Io capisco che è un tempo che vive di slogan, che ha l'effetto, e quindi è molto più facile far passare questo messaggio. Allora bisogna essere un po' più chiari. L'11 luglio possono scendere in piazza e dire: noi non vogliamo questa legge perché vogliamo continuare a anche aggredire le persone LGBT. Allora questa è una ma questo cosa, non ma dirà che mai nessuno, lo capisci? Esatto. Che questo nessuno osa, anche se il sottotesto è questo, chiaramente, che porterà avanti, metterà avanti il pasticcere, il fioraio e il fotografo. Cioè, ma mi sembra veramente una cosa che non ha senso. O il prete non può dire, dal prete dal pulpito penso possa dire quello che vuole, certo, non può lanciare le crociate, andateli a prendere e bruciateli, ma può dire: per la Chiesa è un comportamento irregolare, è un peccato, ma chi gli dice niente? È il suo diritto dirlo, penso, almeno difenderei io il suo diritto a poterlo dire in Chiesa quanto vuole. No, proprio il reato di propaganda di idee non c'è, quindi in sintesi diciamo che c'è forse un problema di propaganda di fake news da parte di una certa politica. Ecco, in questo momento potrebbe qualcuno pensare che ti sto discriminando, mi dicono che devo chiudere la trasmissione, abbiamo detto quello che potevamo dire, lascio alla lettura del tuo libro e al giudizio di chi ci ascolterà. Alla prossima.